Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. È in corso una specie di invasione buona. Meno di 2 mesi fa a Milano è sbarcato Enjoy, l'ultima iniziativa di car sharing di Fiat ed Eni, che si aggiunge alle altre già presenti, almeno 4 o 5, tra cui Car2Go, Evai, Guidami, che è quella storica, e altri operatori sono in arrivo. La caratteristica principale dell'ultimo arrivato di Enjoy è la possibilità di prelevare e lasciare il veicolo un po' dove si vuole. Insomma, con il solito smartphone e l'app di turno, uno cerca il veicolo più vicino a lui, lo preleva, lo usa per raggiungere la destinazione e poi lo lascia rendendolo disponibile per il prossimo utente. È uno dei modelli possibili e ogni operatore offre un servizio diverso da quello dei competitor. Questo per andare incontro a esigenze diverse. Allora, cerchiamo di capirci qualcosa di più con l'aiuto di Marco Mastretta, che è direttore di ICS, Iniziativa Car Sharing, la quale è la rete che unisce i servizi di car sharing sponsorizzati dal Ministero dell'Ambiente, che sono presenti in varie città e che grazie a questa rete sono interoperabili tra loro. Mastretta poi è anche ingegnere del traffico. Insomma, più di così. Buonasera Mastretta. Buonasera a voi. Allora Mastretta, c'è più di un car sharing, potremmo dire così? Fondamentalmente il mondo del car sharing si è diversificato in due grandi famiglie che si differenziano tra di loro per due fatti legati. Il primo è la possibilità di rilasciare l'auto dove si vuole, cioè quindi senza avere una postazione fissa, come succedeva nel car sharing, diciamo, tradizionale. E il secondo, che è una conseguenza di questo fatto, è la possibilità di prenotare o non prenotare l'auto. Gli schemi che vengono chiamati free flow, come quelli che sono applicati in Italia a Car2Go o Enjoy, sono schemi appunto che permettono il rilascio dell'auto dove si vuole e non hanno prenotazione. Lo schema classico a prenotazione e prevede lo stallo per il rilascio dell'auto. Cioè di lasciarla in un punto ben preciso, insomma. Esattamente. Perché questa differenza? Questi due modelli sono funzionali a esigenze di mobilità di tipo differente. Il primo, quindi quello free flow, soddisfa esigenze in cui la possibilità di trovare un'auto non è fondamentale, perché il tipo di spostamento può essere fatto con modi diversi, quindi il trasporto pubblico, taxi o altre cose. Quindi lei sta dicendo è un modello da grande città o comunque da centro città, dove ci sono vari mezzi di trasporto, tra cui anche la possibilità di usare il car sharing. Ma alla peggio uno chiama un taxi, insomma, no? Esatto, è un servizio importante aggiuntivo per quelle grandi città dove la domanda è molto elevata, dove servono molte vetture per soddisfare il servizio in maniera, diciamo, efficiente ed efficace, e dove quindi la mobilità è soprattutto di tipo urbano, tempi brevi, esatto, e chilometri brevi. Okay. Il tipo tradizionale serve soprattutto invece come servizio per coloro che in qualche modo vogliono usare pochissimo l'auto, addirittura vogliono rinunciare all'auto. Ecco, a me viene in mente, per capirci, un caso tipico: una famiglia che ha un'auto, ma ogni tanto capita che, non so, che il papà deve fare un viaggio di lavoro e sono costretti a tenersi la seconda per non lasciare senza auto la famiglia, no? 2 settimane all'anno. A questo punto avere un'auto di proprietà, beh, insomma, è anche costosetto. Esatto. Infatti, tenga conto che il 70% degli utenti del car sharing, dei sistemi di car sharing italiano, di tipo, diciamo così, puro, tradizionale, come sì, si vuole e dire, non ha almeno rinunciato a un'auto, almeno venduto un'auto nel momento in cui, o non ha comprato un'auto nel momento in cui ha sottoscritto l'abbonamento, certo, al servizio di car sharing. Quindi è semplicemente sostitutivo. L'uso di queste auto non è tanto per spostamenti sistematici, scuola, lavoro o per affari, ma è per quegli spostamenti di tipo, diciamo, erratico, occasionale, che sono contraddistinti da tempi molto più lunghi e da percorrenze molto più lunghe. Compreso magari andare a fare la spesa una volta alla settimana, no? Al weekend, o a una giornata, o a fare la spesa e così via. In questo senso qua, la certezza di avere la disponibilità dell'auto diventa molto importante, poiché quello spostamento si fa solamente in questo modo. È uno spostamento programmato, diciamo così, per sua natura. Senta, però mi pare di capire che uno ha bisogno di tutte e due a questo punto, no? Certamente, assolutamente, perché sono, diciamo, schemi diversi che rispondono a esigenze di mobilità diverse, che nelle aree urbane sono presenti entrambe. È evidente che il primo tipo risponde molto più di più alle esigenze delle grandi aree urbane, delle grandi città, dove un numero molto elevato di auto in car sharing si giustifica perché risponde ad una domanda. Il secondo può avere una diffusione molto più capillare, come succede in Nord Europa, perché è un servizio sostanzialmente complementare del trasporto pubblico e mirato quindi a contenere la diffusione delle vetture. Allora, grazie Mastretta, ci dobbiamo fermare qui, ma torneremo a parlare di car sharing domani per capire come sviluppare maggiormente questo settore. Buona serata.